Beam Busters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Salve a tutti, buonasera, buongiorno, buona mattina, buonanotte, salve a tutti e benvenuti alla settima puntata dei Filmbusters. Io sono Alex Tiro e con me c'è il Monco. E io ho detto, ciao. Ciao. E Nicoletta Intrinseco. Sì, io volevo dire una poesia. Mio nonno fava i mattoni, mio padre fava i mattoni, faccio i mattoni anche me, ma la casa mia dov'è? E chi indovina la citazione vince un altro sconto da DVD.it. Vabbè. Questa era una citazione dal padre di Batman, Neil Gaiman. Sì, oggi puntatona ricca di news, di trailer, povera di film, perché come sapete ormai le sale sono deserte. No, la prossima settimana c'è un florilegio. Un florilegio alla grande. E partiamo allora dai trailer, iniziamo con Intrinseo che ci parla dell'uomo d'acciaio. Amber. Vedi, allora, sì, ve ne parlo io che non sono un esperto di Superman, non sono un fan dei fumetti, però e non sono un fan di Snyder, quindi è strano, ma ci credo molto in questo film, mi sta piacendo molto da quando ho visto le prime immagini e adesso al Comic Con hanno mostrato addirittura praticamente tre trailer, comunque uno lì e poi due che sono usciti in modo più o meno ufficiale, comunque sono più o meno la stessa lunghezza, anzi credo siano identici. Li avete sentiti, forse cambiano soltanto per la voce narrante che in una è di Kevin Costner, il padre di Kent, di Clark Kent, e nell'altra è la voce di Russell Crowe che interpreta Jor-El, ruolo che fu di Marlon Brando, ricordiamolo con vergogna. Teaser molto brevi, 1 minuto e 34, si vede poco, subito si è parlato, secondo me a sproposito, di un'influenza di addirittura di Terrence Malick di Tree of Life, che a quanto pare dovrebbe aver influenzato Snyder in questo film. Non lo so, basta inquadrare un po' di una mareggiata, qualche gabbiano per fare una somiglianza con Tree of Life, non lo so, decidetelo voi, a me non sembra. Comunque è uno stile diverso, oddio, neanche tanto, perché già Sucker Punch era abbastanza grigio, nonostante tutto. Comunque sembrava una virata, almeno dal punto di vista stilistico, quindi anche questo mi fa ben sperare. E poi c'è un altro trailer che è di 2 minuti e qualcosa, che è quello che è stato mostrato al Comic Con, che è un po' più sostanzioso, si vedono le stesse immagini di questi due teaser, e poi mostra un po' di azione, quella che manca nei due teaser, quindi un salvataggio, il classico salvataggio dal pulmino che finisce in acqua, si intravede forse Zod, ma è, insomma è un bootleg, quindi la qualità l'avete vista, magari fa abbastanza pena, quindi è difficile parlarne, però intanto è qualcosa in più su cui riflettere, perché gli altri sono proprio, a parte Superman che prende il volo, non si vede granché, è proprio un assaggino. A me intriga molto, voi che ne dite? Vai Monco, che tu sei appassionato di comic movie. Che cavolo. No, mi è balzato subito all'occhio una cosa stranissima. Lois Lane è interpretata da Diane Lane. Hanno lo stesso cognome. Assurdo. Sì. No, Qui la interpreta Amy Adams, che secondo me ci sta a fagiolo. Ah sì? No. Sì. E Diane Lane chi è che fa allora? E farà il suo cameo nel ruolo della vecchia Lois Lane, non lo so, comunque... Farà la madre. Ah sì, probabile, sì. È la madre di Kent, sì. E comunque un bel cast, che c'è lei, Costner, Russell Crowe, Amy Adams, Lawrence Fishburne, e c'è anche, per me, che sono un grande fan, Antje Traue, che era la sopravvissuta di quel film di fantascienza, oddio, quello uscito recentemente al cinema, No. Dio, mi viene il nome. Sì, quella roba c'era... sulla nave. Sì, la nave Pandorum. Sì. Che è una bella tosa, e sono contento. Vabbè, monco, pensate... Niente di acido, monco, cioè... Non... No, mi è subito passato sopra quel bastardo. Dai. Io ho raccolto delle news, perché il mio argomento, la mia opinione la si sa. Pensate che Amy Adams aveva un ruolo anche in Smallville, quindi, cioè la seconda volta che si tocca con Superman. Al posto del cattivo Shannon, non l'hai manco detto che Shannon è il cattivone. Si vede al trailer. Vabbè, però c'è scritto. Volevano al suo posto Viggo Mortensen, che alla fine ha detto no. E invece Bryan Singer e Brandon Routh, quelli del Superman prima, Returns, volevano avere una parte, cioè volevano dirigerlo e essere di nuovo protagonista l'altro, è solo che gli hanno detto no, per favore, basta, state indietro, non fate più nulla. E basta. No, lo so, non ci vedo nulla di Tree of Life, molto probabilmente hanno preso le uniche scene lente di tutto il film e le hanno piazzate lì con una voce fuori campo che dice boiate. Cos'è, il primo capitolo verso la Justice League questo allora? Sì? Probabile, non se ne sa ancora niente, credo. Vabbè, sì, dicono già Justice League nel 2015, quindi iniziano già adesso. Vabbè, ma una news recente, questa era già in lavorazione da un po', però è probabile. Sì, ma dico, da qui partiranno molto probabilmente. Sì, a meno che devono fare un altro reboot. Dicevano che dovevano fare reboot anche di Green Lantern, ad esempio. Sì, perché non è piaciuto, quindi bisogna rifarlo. Boh. Certo. Non è proprio il materiale in sé, era il film che non era piaciuto. Vabbè. C'era anche la news che avevamo postato qualche tempo fa su Twitter, no? Del fatto che la Warner pensava di accantonare per almeno 3 anni i film sui supereroi, quindi arrivare dopo 3 anni alla Justice League, insomma, abbiamo visto che per The Avengers hanno martellato quasi 2 film l'anno, insomma, quindi non lo so quanto può essere. Vabbè, ma sulla Justice League non è che c'è un'altra idea chiara alla Warner, quindi no, perché dobbiamo rifare, forse ci salviamo. Dobbiamo fare il reboot di Batman, questo, poi gli altri, ce ne vuole di tempo. Ma se il reboot di Batman dicono che non sa un reboot, nel senso che, vabbè, comunque non spoileriamo niente, però... No, però nel senso è un reboot, nel senso che sarà un personaggio che adesso andrà in quella direzione, perché quello di Nolan non credo sarebbe inseribile in una Justice League, l'ha talmente rielaborato che... No. Perché probabilmente dovranno rifare tutto da capo, Green Lantern, questo... Sì, vabbè, io d'accordo con voi, insomma, non è che bastano due scene con la telecamera a mano per fare Tree of Life, insomma, però detto questo, come hai detto anche tu, sembra, diciamo, discostarsi molto dallo stile, dal solito stile di Snyder, insomma, quindi... E da Gaul. Sì, oddio. Insomma... Meno male. Volano sempre, però, Sì. Ma speriamo che faccia finalmente una cosa che non ti faccia cascare le palle per la noia, che un Superman un po' più concreto dal titolo sembrerebbe, insomma, ci si può ben sperare, con una cosa un po' più viscerale, più fisica, insomma. Beh, dai, già da adesso, da quello che hanno mostrato, sembra qualcosa più a terra, ecco, nel senso che non hanno mostrato grandi scene d'azione. Non mi sembra che ponga l'enfasi comunque su grandi effetti speciali, ecco, c'è solo giusto una scena dove si vede Superman che sfonda il muro del suono, ecco. Perché inevitabile, bisogna farlo volare sto. Per forza, insomma. Sì, chiaramente sarà un largo uso, sembra, soprattutto per Zod, che si è già visto anche Shannon in scena con la tutina classica per il green screen, quindi insomma, quelli lì ce ne sarà un po' di più, ma è inevitabile, basta che non ci siano i fondali, le solite snyderate terribili, e non sembra, appunto, dicevamo, è una fotografia, uno stile un po' più terra-terra, quindi chissà, speriamo bene. Insomma, meno self-empowering. Esatto, sì, non è un film... all'insegna del self-empowering. Sì, no, beh, no, se non altro, secondo me è una cosa positiva che, diciamo, venga un po'... Cioè, sembra, da quello che è stato mostrato comunque, che le redini della produzione stiano in mano più a Nolan che a Snyder, comunque. cioè Snyder sia un po' il mestierante messo lì a girare, però alla fine comunque lo stile rispecchierà più che altro lo stile di Nolan, insomma, speriamo. Sì, insomma, giustificherebbe questo stile diverso, sì. Potrebbe essere una cosa buona, non è che Snyder lo rifiuto a priori, però se ci ha messo mano lui e viene qualcosa di buono, chissà. Ok. E vabbè, non so se il Monco vuole aggiungere acredine e buttare il fuoco. Spero ci sia anche molto meno turacciolo. Sarebbe. E vabbè, non è che devo spiegare tutte le parole che uso. È così. No, spiega. Il cavatappi. Va bene. E vabbè, passiamo allora al prossimo trailer, sempre intrinseco, ci parla di Rec 3. Pensavo alternassimo, ok. No, non alterniamo. Così tutto. Proprio tutto in una botta sola, vabbè. È regolare. Dice, faccio esatto. È regolare. Allora, questo Rec Genesis è il terzo capitolo della trilogia, spero si finisca con la trilogia, comunque della trilogia spagnola, diretta da Paco Plaza e in parte comunque con alle spalle Balagueró, che in questo caso è addirittura credo solo produttore creativo, c'è scritto. Dunque, a me interessa molto questo film, se ne parla da un po', non mi era piaciuto per niente il secondo capitolo, e quindi questa potenziale nuova piega che stanno dando al film mi interessa molto, mi fa ben sperare. Insomma, vi ricorderete, un riassunto breve, il primo Rec era uno dei primi POV horror, comunque uno dei primi di grande successo in questo condominio che viene sigillato per questioni di sicurezza, si scopre nel primo e nel secondo film che c'è dietro qualcosa di demoniaco, non vi dico altro se non li avete visti, e insomma il primo era già un po' più di atmosfera, il secondo degenerava, diventava il classico POV con gli agenti SWAT che hanno la telecamera nel casco, molta caciara, poco realismo, poco divertimento, vabbè. E questo 3 si vede, dicevo già dal trailer, intanto informo, anche perché ho letto vari commenti su internet, sembra che ci sia un po' di confusione, non è un prequel, non parla della Niña Medeiros, la ragazzina da cui è partito tutto. Niña, quello doveva essere il primo progetto per il terzo film, poi è stato stravolto da Balagueró, che a quanto ho capito l'ha proprio imposto a Plaza, perché voleva farci recitare la moglie, e la moglie è l'attrice che vedete nel trailer, oddio, come si chiama? Sì, Letizia Dolera, che è una bellissima donna, particolarissima anche nel trucco usato, è vestita da sposa, è molto accattivante come personaggio. Quindi non è un prequel, è una storia a sé, insomma, un'altra location in cui si diffonde questo virus. E niente, un'altra cosa che dal trailer si intuisce è che non c'è più il POV. Cioè, è una contraddizione perché la saga è iniziata così e il titolo fa andare in quella direzione, comunque si fa aspettare qualcosa del genere, no. Invece... La prima parte si vedono riprese dal cellulare. Sì, c'è un inizio, un matrimonio, e c'è la classica ripresa, il filmino del matrimonio, ma è una cosa davvero breve, proprio, se non sbaglio parlando di un quarto d'ora. Poi proprio con il cambio di direzione della saga c'è proprio un cambio di toni e si abbandona questo POV per andare in tutt'altra direzione. Qualcuno parla addirittura di analogie con La Casa, con Raimi, quindi un horror più ironico. E si vede, insomma, c'è questa sposa ricoperta di sangue che taglia con la motosega gli zombie che le vanno incontro, insomma, sembra davvero qualcosa di diverso da quello che siamo abituati a vedere con dei film precedenti. E a me intriga molto, sembra una cosa simpatica, non mi aspetto niente di profondo, insomma, ci voleva una svolta un po' più... una svolta, ecco, o la chiudevano lì o cambiavano completamente registro. E a quanto pare l'hanno fatto, io lo attendo molto. In Spagna è già uscito il 30 marzo, se non ho capito male, e in giro sembra che ci sia già il Blu-ray, ma non è ben chiaro. Pare che verso settembre potremo trovarcelo nelle sale, ma non è sicuro, non garantisco. Sì, anch'io ho già letto qualche commento, tutti negativi per ora, non so i tuoi, però insomma ne parlano già tutti piuttosto male. Io lo trovo, dal trailer per ora, prima di tutto inutile, perché ha iniziato in un modo come stile, adesso cambi già tutto. E poi si stacca totalmente dalla saga, quindi potevano anche chiamarlo totalmente in un altro modo ed era uguale. Non vedo perché, cioè, ovviamente devono sfruttare il nome Rec E boh, sì, sarà più divertente, me lo trovo, almeno dalle prime immagini, se solo più stupido, non credo che lo guarderò. Anche se gli altri due mi sono piaciuti, cioè il primo moltissimo, il secondo vabbè, fino a metà poi degenera. E qui c'è proprio una scala, sta andando sempre più in giù, credo almeno. Sì, vabbè, no, io mi ero fermato al primo che mi era piaciuto un sacco, poi non lo so, non sono un po' rotto dei POV e quindi il secondo l'ho un po' evitato. Questo non lo so, ma è, come dice Intrinseco, non ci sono, almeno nella seconda parte non c'è più il POV. Vedremo, non lo so, non è si che sono... mi atteni molto, insomma. Si sono rotti anche loro, forse. Si sono rotti tutti quanti. Sì, magari è un, mi piace anche per questo, lo voglio leggere come una bandiera bianca e basta, siamo rotti pure noi, abbiamo sfruttato abbastanza, buttiamola in cacciara. Se pensi a un film come Chronicle, che per non usare più i POV sono inventati la scusa, sì, che il tizio riesce a controllare, sì, la telecamera con... giustificare tutto, a quel punto non è più un POV e quindi... Sì. Che senso, e per fortuna, basta. Sì, sì, chissà. Ma è dura, resiste sta moda, perché ne escono. Speriamo che si interrompa qui con questi. Boh. Ma era già morta un po' dopo la fine di... dopo The Blair Witch Project, poi è risorta con Cloverfield, con... La fanno resuscitare a cadenza regolare, cioè c'erano i vecchi, sì, film anni 70 che l'hanno un po' inaugurata, poi l'hanno ripresa appunto con Blair Witch Project, poi pausa, di nuovo Paranormal Activity. Speriamo che non venga fuori un altro boom al botteghino per qualche film di questo tipo, che è quello che frega, cioè vendono questi film, poi chiaramente loro ci marciano, ci fanno le trilogie, ci fanno le quadrilogie, ah, e così via. E vabbè, e quindi archiviamo pure Rec 3 e passiamo invece al il grande Oz, e ce ne parla il Monco. No, è il grande potente Oz. Ah, il grande potente Oz. Scusa, vuoi mettere? Così è molto, certo, più bello. Certo, certo. Lo conosciamo... Chiedo venia. Scusa, mi vuoi massacrare già un film che amo? Non lo so. Lo conosciamo tutti, il mago di Oz, la versione del 39? Sì. Ho visto anche dei pezzi del sequel, madonna. Ecco. Altro che sequel, sta per uscire il prequel, che bella, la notizia che aspettavamo tutti, quella che girava da parecchio, che Raimi avrebbe fatto questo prequel, e finalmente è arrivato il trailer al Comic Con. E insomma, ce lo si poteva immaginare brutto, ma così brutto no. È praticamente Alice in Wonderland, quella schifezza di Tim Burton. Cioè praticamente è identico a quello. Già quello era bruttissimo. Qui non lo so, forse è ancora peggio. Non lo so. Poi vabbè, prima illustro la trama, perché qualcuno magari è anche interessato. Ma chi? Allora, quando Oscar Diggs, che sarà interpretato da James Franco, e Oscar Diggs, che è un illusionista di un piccolo circo dalla discutibile etica, non è quel personaggio che si vede nell'originale, quello che parla con Dorothy e le racconta della famiglia, eccetera. Sarebbe stato bello se fosse stato almeno quello, così c'era un legame, ma fa niente. Viene trasportato dal polveroso Kansas nel fantastico regno di Oz, cioè la stessa cosa che succede a Dorothy. E quando succede questa cosa, lui pensa di aver vinto la lotteria, fama e fortuna a sua completa disposizione. Questo finché non incontra le tre streghe. Due le vediamo, le avevamo già viste anche nell'originale, che sono, dovrebbero essere, Evanora, interpretata da Rachel Weisz, la strega cattiva, e Glinda, interpretata da Michelle Williams, che è la strega buona. In più c'è una terza, che è Teodora, interpretata da Mila Kunis. Queste tre streghe non sono convinte che lui sia il grande mago che tutti credono. Coinvolto a suo malgrado nei conflitti del regno di Oz e dei suoi abitanti, Oscar deve capire chi è buono e chi è cattivo prima che sia troppo tardi. Insomma, un film che bisognava proprio fare, c'era proprio la richiesta, dopo quasi 80 anni c'era proprio la richiesta di sapere cosa era successo prima della vicenda del mago di Oz, che insomma era un sogno che faceva Dorothy, ma vabbè, bisogna proprio fare un film prima. Vabbè, è bruttissimo, già lo dico, già lo so che è bruttissimo. E in più c'è quell'effetto, come ne scrivevo, che c'è? Che è successo all'audio? Niente. Ah, perché? È saltato, vabbè. Come ne scrivevo già in passato, facevo un paragone con la vecchia trilogia di Star Wars con quella nuova, in cui quella nuova, che dovrebbe essere un prequel, ci sono dentro cose avveniristiche, futuristiche, che non ci sono poi nella trilogia vecchia, che sarebbe il futuro. E qui è uguale, il regno di Oz ha dentro delle robe incredibili, dei mostri e mostriciattoli che non c'è nessuna traccia nell'originale, perché ovviamente erano difficili da creare. Però qui bisogna proprio esagerare, mettere un mucchio di stronzate, in pieno stile Alice anche queste. Vabbè, generalmente sono contento che ci sia Raimi, anche se non sono contento, ma almeno c'è lui, spero che sia buono. Anche se in originale pensate che doveva dirigerlo Mendes, almeno gliel'avevano proposto, e il protagonista doveva essere al posto di Franco Robert Downey Jr., e lì avrei davvero vomitato. Non so voi, se siete fan come me dell'originale, non credo, però vai. No, non penso fino al punto al quale sei fan tu, insomma, però sì, effettivamente non se ne sentiva il bisogno, ma immagino che cavalchi l'onda di questi film che trattano, insomma, di favole dark, quindi come hai detto tu lo stile è praticamente identico a Alice in Wonderland. Non si preoccupano manco di mascherarlo, nel senso che nel trailer già appare scritto dal produttore di Alice in Wonderland, quindi sì, vabbè, effettivamente è un po' straniante il fatto che ci siano creature ed effetti speciali che ovviamente per forza di cose nel 39 non potevano esistere, e niente, no, anche per questo, insomma, le mie aspettative sono abbastanza tiepide, ecco. Non avrei preferito che Raimi si fosse dedicato ad altro, insomma, magari un ritorno all'horror stile La Casa, insomma. Drag Me to Hell è il suo, no? Sì, quindi, insomma, poteva un po' continuare su quella linea lì, sì, anche perché ha dimostrato che è ancora vigile e sano di mente con quel film, quindi sarebbe stato bello. Sì, quindi, ma io mi hai già anticipato, ho commentato proprio sulla notizia dicendo che mi sembrava Alice in Wonderland ed è prodotto dalle stesse persone, quindi insomma c'è anche un motivo. E sì, mi fa questa impressione, la stessa pessima impressione, stessi fondali, mi è venuto in mente quel video, tutti i film in 3D si somigliano. È vero, tutti i film in 3D si somigliano, e tutti questi adattamenti di favole o remake o reboot di favole, comunque rivisitazioni, si somigliano, hanno questi fondali alla Burton, brutta maniera, un 3D pessimo, immagino sia in 3D, non ne sono sicurissimo, mi sembra di sì. Sì, ma comunque non ci avrei scommesso, comunque, molto probabile. Quindi sì, pessime impressioni, io non sono, cioè mi è piaciuto l'originale, è un film, un classico, è difficile che non piaccia, ma non è che ero impuntato per questo, cioè non è, ci avrei anche sperato, ma il problema è che appunto queste cose si somigliano tutte, sono tutte uguali, cioè anche volendo partire con i migliori presupposti non puoi. Non ci crede nessuno, dai. Quante se ne siamo sorbite di favole dark nell'ultimo anno, anche 5. Cioè, poi andare a rimangare anche i classici, cioè, non c'è proprio pietà, a massacrare tutto senza criterio. Dai che mo Miley Cyrus rifà Somewhere Over the Rainbow. No. Avranno mica scelto apposta. No, scherzo, l'ho portato da là, visto che è la Disney, insomma. No, vabbè, l'ha già fatta quel ciccione hawaiano. Allora, ragazzo, però. So. Non era Miley Cyrus quella? No. Non ho mai visto Miley Cyrus, mi dispiace. Ero convinto. No, buttata là. Quindi di High School Musical, che ne so. Avete presente i nani più famosi di Hollywood? Quello nero e quello bianco? Tony Cox e Martin Kleba? Vabbè. No. A parte quello del vostro telefilm preferito, quella roba lì. Gli altri due sono questi. Quando c'è bisogno di un nano sono sempre questi. Ecco, sono nel cast, ovviamente. E comunque il cast è anche buono, Perché c'è Rachel Wise è buono. Non capisco, poi è una che di solito ha criterio nelle scelte dei film. L'ho sempre vista in cose un po' più impegnate. Vabbè, ma di recente anche Franco, comunque. Sì, anche lui. Vabbè, però comunque uno è inserito già in Hollywood come tipo di cinema. Lei se ne teneva un po' fuori, invece, vabbè. Vabbè, ma da quando è morto Ciccio, Franco proprio si lascia andare. Poi Franco ha già lavorato con Raimi, quindi sono amiconi proprio. l'ho capita adesso la battuta. Tra l'altro, perché non si dedica ad altro, è recente l'altra news, pare che Raimi, vabbè ormai era chiaro, ha fatto questa porcheria, ha abbandonato una cosa di cui si erano dimenticati tutti e che nessuno, di cui nessuno sentirà la mancanza, non farà più il film di World of Warcraft, non cambierà la vita a nessuno, però era giusto dirlo. A Mazzo sì, ciao Mazzo. Ah, volevo fare una rettifica su una cosa che ho detto prima su REC. Non è un prequel perché è stato dichiarato, però ovviamente ci sarà l'anello di congiunzione, perché vedo che tra i personaggi c'è la Niña Medeiros, solo che da quel che ho capito l'impostazione che gli ha avuto dare Balagueró ha stravolto l'idea originale del prequel, giusto per specificare, cioè, c'è un legame, Genesis d'altronde è legato a quello, però probabilmente è proprio la classica scena dopo i titoli di coda. Bello, era un'ora fa. Vabbè, l'ho sfuggito, almeno l'ho detto. Appunto. Vabbè, dai, passiamo allora al prossimo trailer. Il Monco ci parla di Epic. Ah, proprio sdoppiettare oggi. Si sdoppietta. Sì. E allora, Epic, un trailer che ho scelto all'ultimo secondo. Volevo parlare di The Canyons, un film minore con Lindsay Lohan e un porno attore. Però il trailer è... non c'è nulla nel trailer, quindi... Epic. Bene, di cosa parla questo Epic? La so verde, dai. Sì, un altro film d'animazione con il popolo lillipuziano che vive al contatto con la natura. Bene, sì, passiamo oltre, dai. Esatto. Si parlava l'altra volta di film animazione che sempre vanno a parlare sulle stesse cose, la natura quanto è bella, e infatti... Vabbè, qui ci sarà una ragazza che si trova trasportata dentro una foresta di mini personcine, una roba tipo i mini me, insomma, che volano sugli scarafaggi, combattono con le formiche, insomma. Le lumache. Le lumache, sì, sono i loro migliori amici, cioè, insomma, uno che ha come migliore amico una lumaca, non gli daresti 2 lire. E... Per chi è fan della Fox Sony, Fox. Blue Sky Studios, mi pare che sia del Blue Sky Studios, gli stessi di Robots e di L'Era Glaciale. L'Era Glaciale, Rio, insomma, se vi piace quel tipo di animazione, che sì, è comunque meglio della DreamWorks. Se vi piace quell'animazione, peggio per voi, insomma. Sì, okay. Noi non vi giudichiamo, però, insomma... Non è la Pixar, va bene, però insomma dal trailer, a parte che questo sarà in 3D e quindi è uguale a tutti i trailer in 3D, le visuali dall'alto, il volo a 3 di robe che volano, personaggi che cadono, insomma le stesse robe, e insomma se siete quelli che proprio dicono ah no, io i soldi alla Pixar non li do e dovete per forza dare i soldi, c'è questo. Ma io non ho capito, esiste questa categoria di persone? Sì, dove sì. Hanno nascosto. Soprattutto, bisogna dare i soldi a qualcuno per forza. Fatemene a casa. No, no, loro hanno proprio freddo, cioè gli prudono le mani. Io voglio vedermi un cartone al cinema, ma non che deve non essere... Che sia della Pix, vabbè. Ma tra l'altro, sembra, copiato no, ma sembra un po' troppo simile a quello di Miyazaki. A Riot, e comunque a quel tipo di storie da cui è ispirato, i racconti su questi... I rubacchiotti, vabbè, sì. Insomma, quello che è stato anche adattato con John Goodman, un po', non è passato poco, se lo ricordiamo ancora, il film dello studio Ghibli, perché? Se serviva? Sì. La solita ironia di questo studio, come si chiama? Blue Sky? Non ho sentito. Blue Sky Studio. Comunque ricorda molto quello di Ice Age, eh? Uh-uh. C'è anche la ghianda libera in vista. La stessa povertà di dettagli, proprio. Sì, esatto, molto scarsa l'animazione. Molto sfumata, patinata, bruttino davvero. Bocciatissimo. Ma siete troppo cattivi. Vabbè, dai, solo perché è scelto all'ultimo secondo. No. Ma perché è un film in cui non c'è abbastanza self-empowering. No, infatti. Soprattutto quello. Vabbè, dai, passiamo oltre allora, va. Andiamo ai miei. Allora, il primo trailer di cui voglio parlare oggi è quello di Senza Freni. Che è il titolo italiano di, non mi ricordo quello originale, Premium Rush, esatto, di cui mi sa che ne accennammo pure in qualche puntata passata, mi sembra che parlavamo del thriller sulla bicicletta, vabbè. Io ho acquistato il trailer perché mi piaceva a di bestia. Sì, E quindi, insomma, Senza Freni è un thriller scritto e diretto da David Koepp, che è stato già regista di Secret Window e di Ghost Town. Però lo conosciamo soprattutto per il suo ruolo di sceneggiatore di pellicole quali Jurassic Park, Il Mondo Perduto, Mission Impossible, Carlito's Way, un sacco di pellicole, insomma. In ogni caso, il ruolo del protagonista è stato affidato all'ormai lanciatissimo Joseph Gordon-Levitt, mentre invece nel ruolo del cattivone, che già abbiamo visto in un altro ruolo da cattivone, c'è Michael Shannon, che ha recitato in Take Shelter, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Allora, vabbè, la trama narra le peripezie di un Pony Express in bicicletta che lavora a New York, a cui viene affidato... Ma non sai mica se è il remake del ragazzo del Pony Express con Jerry Calà? Non credo di no. No? Oh, vabbè, vai, vai. No, credo di no. Dicevo, a questo ragazzo viene affidato il compito di consegnare una busta a Chinatown in 90 minuti, e tale busta però è l'oggetto delle attenzioni di un poliziotto corrotto che cercherà in tutti i modi di fermare il personaggio interpretato da Gordon Levitt. E vabbè, ovviamente questo fatto darà vita a spettacolari inseguimenti macchina a bicicletta. Allora, dal trailer si intuisce, cioè almeno per quanto mi riguarda, che dietro la regia c'è una grande maestria nel mantenere alta la tensione delle scene dei atipici inseguimenti, almeno questo c'è. Quindi ci stanno un sacco di incidenti mortali, spettacolari. Poi non lo so, a me sembra che il personaggio di Levitt venga sballottato a destra e a sinistra con fratture multiple, non lo so, vabbè. La trama invece, tutto sommato, sembra barcamenarsi tra tematiche, diciamo, abbastanza abusate. A me è ricordato un po' il videogioco Mirror's Edge in bicicletta, però senza lo sfondo, diciamo, distopico. Cioè, questa cosa che i corrieri devono consegnare il pacco, se no... Cioè, ne fanno proprio una questione personale, ecco. E poi, vabbè, mi pare che dal trailer in un certo momento il ragazzo dica ma perché proprio io, quasi a lasciare intuire che ci sia un motivo per cui lui è stato scelto per questa missione, quindi forse ci sarà anche la tematica del predestinato, però insomma per il momento non c'è dato sapere quanto peso abbia nell'economia della vicenda. E non lo so, a me è piaciuto parecchio questo trailer perché, come dico, come ho già detto, insomma, la tensione rimane sempre abbastanza alta e ben realizzato. Spero che lo sia anche il film, però, insomma. Grazie Monco, eh. Cosa? Si sente il cellulare tuo? Veramente no. Sì. Come no, si è visto lo schermo acceso. Sei pessimo. Dai, allora, parlacene tu, dai. Non è neanche nelle vicinanze. Vabbè, è arrivato il suono. Tu che ci dici invece? Che te l'ha piaciuto tanto pure a te? Appunto, io da mo che ci sto dietro a sto film. Innanzitutto, davvero, andatevi a vedere Il ragazzo del Pony Express con Jerry Calà, perché era un filmone. Secondo, il mio corriere è uno sdentato vecchissimo, non so se sarebbe capace di fare queste cose. Sì, come film mi piace tantissimo, come idea, la bici e New York vista in tutti i modi e poi vista ad altezza bicicletta, mi piace tantissimo, che svicola tra le macchine, tra il traffico newyorkese. Mi basterebbe quello, 2 ore di uno che va in bici per New York, anche perché è il mio sogno di andare per Manhattan e tutti gli altri quartieri di New York solo in bicicletta. E gli automobilisti che cercano di ucciderti? Sì, perché no, insomma, sai che noia, se no. Però è la trama che mi fa un po' ridere, non so, magari poi è più interessante di così, però stendiamo quello lì in bicicletta che c'ha una busta importante, mi fa un po' sorridere. E stavo già immaginando la versione siciliana con i camminatori, sono diventati famosi quelli che portano un foglio da un ufficio all'altro in comuni siciliani. Immagino che inseguano uno a piedi che deve portare una busta a 50 metri di distanza. Sarà bellissimo, è un corto ma sarà bellissimo. Quindi in Sicilia ormai Mirror's Edge è una realtà. Sì, come? Senza grattacieli, però è una realtà. Bene. Ne può dare. Sì. Intrinseco invece? Sì, io riassumo un po' le vostre idee, sono d'accordo con entrambi. mi piace questa idea di sfruttare la città in questo modo, si presta molto, è un modo per insomma, farla vedere con un occhio diverso, e solo che non digerisco molto questa ondata di fine. Se ne parlava un paio di settimane fa, quel film che ha recensito il Monco, sul parkour, cioè una volta era il parkour, una volta era un'altra cosa, cioè, c'è sempre questa idea di dover sfruttare la moda del momento, comunque la cosa a cui nessuno ha mai pensato, no? Il parkour prima, adesso le bici, sempre un po' stupido, poi questi corrieri con una morale ferrea, cioè se i miei postini fossero così, magari, non mi arriva roba neanche a pagarla, dov'è il mio notturno di questo mese, pezzi di merda, vabbè comunque, sembra ben girato, l'idea non mi piace, ma per come può essere sfruttata il risultato dovrebbe essere buono. E, insomma, mi piace questa copia e incolla di idee troppo simili. Sì, c'è un bel cast, gente con cui ci si può fidare di più, però non lo so. Sono curioso di vederlo per questo, ecco. Non mi convincono mai, per cui spero almeno la realizzazione colmi le lacune. Le lacune. E parliamo invece dell'altro film di cui è uscito un trailer al Comic Con. Stiamo parlando di Ralph Spacca Tutto, che è il titolo italiano di Wreck-It Ralph. Quindi, cioè, rendiamoci conto, i traduttori italiani ci mettono sempre il loro zampino del cazzo, vabbè. Allora, Ralph è il personaggio cattivo di un videogioco degli anni 80, Fix It Felix, il gioco che fa il verso a Donkey Kong. E questo personaggio, dopo 30 anni di carriera da villain, decide di dimostrare che può interpretare il ruolo di personaggio buono, e quindi fugge dal suo videogioco, si intrufola in altri titoli e aiuta i protagonisti a sconfiggere nemici, fare cose simili, insomma. Nel trailer si vede una simpatica scena dove i cattivi dei videogiochi sono in riunione in una sorta di alcolisti anonimi e raccontano, insomma, le proprie esperienze, il perché sono cattivi, il perché è bello essere un cattivo, eccetera eccetera, e lui, insomma, avanza le sue perplessità sul fatto che si è un po' rotto le palle di fare il cattivo da 30 anni. Già da lì, insomma, si intuisce il fatto che nel film appariranno personaggi su licenza, come i personaggi del videogioco Sonic, di Pac-Man, di Super Mario, i combattenti di Street Fighter, insomma, c'è anche un generico zombie, insomma, che cavalca un po' l'onda della moda dei film, dei videogiochi di zombie recente. E per il resto, il film a me ha ricordato un po' anche Monsters & Co., ad esempio anche la stazione da dove i personaggi entrano nei loro videogiochi ricorda molto anche esteticamente un po' la Monsters Inc. Poi vabbè, sul piano tematico, insomma, spazia un po' da tematiche anche di Monsters & Co., ma soprattutto per quanto riguarda il dover fare qualcosa, il voler fare qualcos'altro, insomma, tematiche piuttosto abusate. In ogni caso, il film sarà diretto da Rick Moore, che ha un curriculum di tutto rispetto come regista di moltissimi episodi di Futurama e dei Simpson, in particolare di quella che secondo me è la stagione migliore, ovvero la nona. E mentre invece le voci dei personaggi saranno affidate a John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch e tanti altri. Mi pare che ci fosse anche un personaggio di Glee, che non lo so, molti... Non so se è la stessa Jane Lynch, insomma, non lo so, vabbè, non ne ho idea. In ogni caso, è il 42esimo classico della Walt Disney Animation Studios, quindi Pixar non c'entra niente, anche se ormai, insomma, Pixar e Disney si sono amalgamate in un'unica realtà, più o meno, anche il fatto che Lasseter ormai è il capo della Walt Disney Animation Studios. E il film uscirà a fine 2012. Ah, so che voi, insomma, siete appassionati come me di videogiochi, quindi dai, ditemi che ne pensate, insomma, su questo progetto. Vado? Vai, vai. Sì, ecco, condividevo la tua perplessità, il riciclare un po' questa idea dell'uscire dal ruolo. Cioè, il pretesto è bello, mi piace molto l'idea di chiamare in causa una cosa diversa. Certo, poi c'è sì, questa fame di idee, prima o poi si finiva sui videogiochi. Però è simpatico anche il punto di vista, solo che è sfruttato in un modo un po' stantio. questa cosa del cattivo che non vuole essere cattivo. Anche negli ultimi anni, se non ricordo male, ne sono usciti 2 o 3 che ruotavano intorno a questo tipo di storie, no? Il villain che non è villain, che non vuole esserlo, oppure lo è suo malgrado, insomma, mi viene in mente Cattivissimo Me o oddio, come si chiama? Megamind pure. Megamind, esatto, sì. Insomma, è una cosa che ritorna un po', non è proprio freschissima. Quindi sì, mi piace come è stata usata anche sì questa idea del varco verso l'esterno, verso la TV, in cui si convogliano tutte tutti i marchi di tutti i videogiochi più famosi. È un bel modo di vedere usate delle cose legate soprattutto all'infanzia, perché mi è sembrato di vedere giochi di una certa età, insomma, c'è poco di nuovo, sì, c'è il riferimento allo sparatutto, però è proprio una scusa per chiamare in causa i classici del videogioco. E sì, però ecco, mi pare che sia tutto qui, cioè una bella idea, una bella ambientazione, ma un motore che non convince. Sì, insomma, immagino poi ci sarà una valanga di riferimenti alla sì. cultura videoludica. La paura è che si regga solo su quello, cioè a me personalmente fa piacere vederlo, però un po' più di stimoli, poi non lo so, magari non sarà così, però così a bruciapelo l'impressione che mi fa è quella di un film che si basa sul riversare, far vedere, ah guarda, ti facciamo vedere questo personaggio, così sai, tutti col dito contro lo schermo, dire ah ecco, l'ho trovato, l'ho individuato, però poi la sostanza magari manca. Vedremo. Che cinema vai che riescono a toccare lo schermo? Indicano. Io lo faccio sempre. Poi mi danno i calci al sedile, ma lo faccio. Poi la gente spara nei cinema, eh? Ah, e poi un'altra cosa, il doppiaggio. Anche solo a me è sembrato orrido. A parte che io sono un fan di John C. Reilly come l'altro e preferirei vedere in lingua originale, però se il doppiaggio fosse all'altezza, invece mi sembra davvero scadente anche quello. Non lo so perché non l'ho visto il trailer italiano, ho visto solo quello in lingua. Soprattutto Ralph ha una voce, sì, ci sta perché il personaggio è goffo, però un po' troppo nasale, un po' appiccicata, non mi convince. Però spero che siano definitive. Io speravo che fosse un film sulla vita di Ralph Macchio, ma comunque lo aspetto, il film su Ralph Macchio. Questo invece, sì, è ovvio. Questo invece, vabbè, nel doppiaggio, e quindi ha scelto di parteciparvi Sala Silverman, è perfetto, sì. È un film bellissimo, solo per questo. E poi, vabbè, sì, è un'idea non nuova, però chi se ne frega, mi piace talmente tanto che non vedo l'ora. È confermato che esce poco prima di Natale anche in Italia o no? Sì, immagino di sì, vorranno sfruttare la... Sì, 21 dicembre. Tutti i film recenti della Disney sono usciti in quel periodo, quindi... Vabbè, 21 dicembre, confermato, quindi Natale al cinema. Il videogioco originale, il padre era Neil Gaiman, ricordiamolo. Sempre. L'ha creato lui. È colpa sua? Sì, sì. Ok. News! Vabbè, passiamo invece agli argomenti. Ok. Ok. vabbè, il primo argomento, vai, introduci tu, Intrinseco, vai. Ma no, ma te lo scordi. Oh, ma il regista... Beh, è il tuo, eh! Lo so. Allora, sì, è una news, che non è una news, però non ci stava bene nei trailer, quindi ne parlavo a parte. E pochi giorni fa, comunque almeno... L'abbiamo notata pochi giorni fa, è stata rilasciata una clip di Silent Hill Revelations, ahimè in 3D. Se ve ne ricordate, ne avevamo già parlato nella puntata del Cine, era nel roster della... Oddio, non ricordo di quale casa di produzione, comunque. Sì, il roster è... non so, sono i post di Tanant che mi confondono. Quindi se non sapevamo già, insomma, mi aveva già incuriosito perché non ne sapevo nulla, pensavo fosse rimasto tra i rumor che non vengono mai confermati. E niente, invece di trailer, trame, foto, hanno rilasciato subito una clip. È interessante perché indirettamente già fa intuire quale sarà la trama, e questo farà contenti molti dei fan della saga, perché adesso vedete perché. Insomma, in questa clip intanto si rivedono le bellissime infermiere che avevamo già notato nel film precedente. Solo che qui c'è anche una differenza, perché lì, se non sbaglio, erano attirate dalla luce, qui è il suono, ma comunque chi se ne frega. C'è questo ragazzo legato su un lettino che si rende conto che ogni suo movimento provoca, fa risvegliare, insomma, queste infermiere armate di bisturi. E a un certo punto entra in scena una ragazza con un gilet bianco, con una giacca senza maniche bianche e un maglione arancione. E, insomma, chi conosce Silent Hill riconoscerà Heather Mason, che è la figlia del protagonista del primo film, Harry Mason. Quindi si presume che, almeno in parte, se non interamente, sarà un adattamento del terzo gioco, quindi uno dei più amati. Solo che è un po' strano, io dopo sono andato a guardare sulla pagina di IMDb ed è un po' confusa la cosa, perché ci sono ancora dei riferimenti al film precedente. C'è Sean Bean, che è accreditato come Harry Mason, quindi il padre di Heather, e come Christopher Da Silva, cioè il marito della protagonista del primo film. Quindi non è chiaro se è solo un errore di IMDb, se questa cosa è definitiva, non so, è molto strano. Comunque, al 90% sarà legato a Silent Hill 3, e, insomma, non credo ci siano dubbi, il personaggio è inconfondibile, un bionda, stesso vestito, lineamenti simili. Ah, e poi tra l'altro, scusate, c'è Sean Bean, che è nello stesso ruolo, è in un doppio ruolo, e Radha Mitchell, che è di nuovo Rose Da Silva, quindi non si capisce. Io pensavo ci sarà magari una scena iniziale che chiude o lega i due film e poi si passa lì, ma è possibile che Sean Bean faccia due ruoli? Scusa un attimo, ma io nel primo film, la ragazzina, c'era anche una ragazzina, insomma, sì, che era la figlia di loro due, quindi magari si ricollegherà a Silent Hill 3, ma la ragazzina non sarà quella che dicevi tu, ma la loro figlia, insomma, che poi esteticamente ricorda la protagonista di... Ma hanno nomi diversi, cioè sono personaggi diversi. Lo so, però magari questo su IMDb, magari chi ha passato il videogioco ha fatto il collegamento e... Ma può essere che... non so, io l'ho interpretato così, che forse c'è un nesso, magari c'è una specie di scena cardine tra i due film, perché comunque il primo aveva quel finale aperto, che non diciamo, ma comunque chi ha visto ricorderà. Magari c'è un nesso, oppure cambiano i nomi, fanno finta di nulla e girano una nuova storia. Anche perché comunque si sono bruciati il primo gioco, che era ottimo. Lo hanno stravolto un po', perché il primo film era il primo Silent Hill con le dovute modifiche, e quindi ora probabilmente si sono resi conto che non quagliavano le due cose, hanno probabilmente stravolto brutalmente la trama o i nomi dei personaggi. Beh, comunque, probabilmente sarà un Silent Hill 3 per il cinema. E non c'è molto altro, tanto un'occhiata al cast, appunto dicevo, Sean Bean in questo doppio ruolo, Radha Mitchell di nuovo, c'è Malcolm McDowell, che secondo me è un segnale d'allarme, perché ormai fa solo cose orribili e le sceglie proprio con oculatezza, cioè è una garanzia di scarsa qualità. Comunque, chissà. Poi c'è anche Carrie Anne Moss, che da un po' che non si vede al cinema, e poi il solito cast di semi sconosciuti, adolescenti vari. Non so, io... C'è anche Keith Harrington, diciamolo, insomma, c'è il cast, metà del cast di Game of Thrones. Non conoscevo il nome dell'attore, ma è lui, sì. Snow. Insomma, mi preoccupano due cose, il fatto che sia in 3D, quindi non lo vedrò al cinema probabilmente, e poi questa ambiguità sulla trama, però verrà chiarita. Io sono interessato, il primo film era buono. Il materiale è sempre ottimo, perché Silent Hill 3 ne offriva in abbondanza, e non so, la paura è che sia il classico sequel che cavalca un po' l'onda senza sentimento e senza cuore. Poi il regista, ahimè, è quello di Solomon Kane, che non so, mi ha disgustato profondamente. Michael J. Bassett, non so se ha fatto altro, non ricordo per quello. Altro, non è solo il regista, ma anche il sceneggiatore. Sì, infatti, geniale. Non so, è la cosa che mi preoccupa di più. Però un po' di curiosità ce l'ho ancora, perché secondo me è un brand che, se usato bene al cinema, potrebbe dare tanto. Magari se la piega è questa, era meglio fermarsi al primo, però chissà. Sì. Ah, e un'altra cosa, una postilla che ci creerà molti nemici. Su internet, un canale YouTube che credo si chiami AC News, comunque parla di cinema, di solito ci azzecca pure, mette dei trailer quasi nuovi. questa volta ha messo un trailer come ufficiale, non fidatevi perché sono scene da Dem e da altri film, e tra l'altro ci sono anche scene del primo con la ragazzina, insomma, del primo film, e ci sono vari finti trailer, ma non quadra perché la protagonista si vede un'altra, ed è presa da un altro film. Praticamente è uscita solo questa clip di questo film. E la trama l'hanno detto, probabilmente hanno pensato che l'avrebbero intuita gli spettatori. In effetti così ci si arriva, vedendo Aether. Ho capito. Vabbè, secondo me il primo film è la miglior trasposizione da videogioco. E vabbè, ne avevamo già parlato anche quando l'abbiamo messo nel roster dei film interessanti del cine. Quindi, insomma, le mie impressioni erano quelle lì. Le perplessità nascono tutte dal fatto che non c'è più Roger Avary tra gli sceneggiatori, insomma, che era più o meno una garanzia di qualità. E detto questo, però, la clip mi è piaciuta, insomma, c'è questa... Cioè, la cosa importante è che è stato mantenuto questo look sporco di Silent Hill, che a me piace tantissimo. Poi vabbè, le creature di Silent Hill mi hanno sempre inquietato perché sono veramente disturbanti, cioè poi questa fotografia che tende all'ocra. La clip mi è piaciuta, vedremo un po' come se il film saprà mantenere, insomma, il livello qualitativo del primo, speriamo. No, mi ero fatto una pennica nel frattempo. No, non è vero. Sì, difficile giudicare da una clip, non è neanche un teaser, non è neanche un trailer, non c'è neanche una data o no, niente. Sì, quando abbiamo parlato del cinese, se non sbaglio, era Halloween, però sì. Per l'America, da noi non ho idea, si parlava di distributori italiani, quindi può darsi anche da noi. Ma non l'Halloween questo? Cioè, proprio... che Halloween, sì, quale... era nel 2012. No, perché... No, manca veramente poco e insomma, vabbè, ma c'è una clip, ma di solito la clip è una cosa post, sì, che si dà dopo i trailer, quindi vuol dire che secondo me hanno finito. Però è vero, è strano che non abbiano messo trailer e altre cose. C'è qualche foto. Sì, è un po' troppo provvisorio. O magari è una gaffa dei distributori lì a... Però, boh. È Dario Argento che li tiene, gli hanno rubato anche questo trailer, ricordiamo. Appunto, allora, quindi è difficile da giudicare. Giudico quel poco che si vede, il trucco sembra ancora quello dell'uno, e quindi sia l'ambientazione che il trucco dell'infermiere benissimo, bellissimo, e fa veramente, ricorda moltissimo il gioco e fa veramente paura. Però per il resto non lo so, finché non c'è una trama, sì, ok, il Silent Hill 3 anche a me è piaciuto tantissimo, eccetera, però vediamo di cosa parlerai e come sarà. Per ora bello visivamente, spero che sia almeno ai livelli dell'uno come film, insomma sono speranzoso. Allora dai, passiamo a Godzilla, che il monco ne vuole parlare da secoli. Ecco. È proprio la mia puntata, perché non solo hanno massacrato Oz, cioè lo massacreranno Oz e anche il ragazzo del Pony Express. Ma notiziona del Comic Con, non so se sia la notizia principale, perché il resto erano solo uscite di date, trailer, eccetera, è che nel 2014 sarà un'altra versione americana di Godzilla, il mostrone giapponese nato ormai belle che 40 anni fa, anche più, sì, 50 anni fa, che ha avuto 29 capitoli in patria e uno solo all'estero, ma è stato veramente... disgustoso. Sì, l'avete visto? Sì, cioè, in qua anche il DVD, il Blu-ray, il Blu-ray. Me lo volevo vedere bene, sì, sì. Io ho la videocassetta ancora. Pure il Cimelio, sai, l'altarino con le candele, la sera in preghiera. No, è un ricordo di infanzia, perché io quando l'ho visto, quando sì. C'avevo 10 anni, 11 anni. Ma infatti 20. Anch'io da bambino, a parte che non conoscevo ancora Godzilla, ma... Lo tolleravo già di più, insomma, non mi stavo a fare troppi patemi, lo si apprezzava, oggi è un po' più difficile. No, io avendo visto quasi interamente i capitoli giapponesi non riesco a passarci sopra, però vabbè, lasciamolo da parte. parte, facciamo che non è mai esistito, come molti hanno fatto. Godzilla di Emmerich non esiste. Vabbè, ma appena te ne dimentichi te ne tirano fuori un altro, e allora scusa. No, ma è lo stesso ragionamento che stanno facendo Gareth Edwards e i vari produttori che stanno mettendo in piedi questa nuova produzione. Allora, infatti loro dicono, abbiamo capito i nostri nel senso americani, errori, partiremo da lì. Sono questi qui dei fan, tutti si dichiarano fan, anche il regista Edwards, dei film giapponesi, li hanno stravisti, però la cosa preoccupante è che hanno visto le versioni americane, che vabbè, a parte il doppiaggio e qualche modifica erano abbastanza simili, anche se erano molto più kitsch per come li avevano fatti. Insomma, vogliono riprendere le origini di Godzilla, addirittura si parlerebbe di un reboot, un primo capitolo fedele al primo, che Godzilla ha avuto già altri due reboot giapponesi, perché ci sono state le varie ere all'interno di Godzilla. Vabbè, è un discorso lungo e complicato. Uh-huh. Insomma, vorrebbero riprendere un capitolo su Godzilla e il resto Godzilla contro i mostri vari, che sarebbe anche interessante, però era, diciamo, un prodotto che si prestava bene, belle che 50 anni fa. Adesso, non lo so, lo butteranno in un casino pessimo, pieno di effetti speciali. Infatti la cosa che era bella di quei capitoli era l'uso dei modellini, che era una cosa meravigliosa. Qui invece di sicuro non li useranno e vabbè, fa niente. Comunque, due parole su chi lo girerà. Gareth Edwards, che ha fatto finora un solo film, che è Monsters, non so se l'avete visto. No, però non so di parlare. Io l'ho visto per vedere, insomma, chi è che metterà in piedi uno dei miei film preferiti. E c'è poco da dire, a parte che è di una noia poderosa, però non è neanche un film, perché è una specie di test, insomma, non ha usato granché di effetti speciali, i mostri si vedono pochissime scene, è più una cosa fatta in economia, lui è un amico con due attori non professionisti, girato alla bella e meglio, senza una sceneggiatura, senza un copione, sono andati in Messico, hanno fatto sta roba, quindi è difficile dire sì è brutto, sì è bello, è un test, gli piacciono i mostri, ha fatto questa roba qui, vabbè, vediamo come andrà Godzilla, spero che sia davvero un grande fan. E poi sceneggiatura dovrebbe curarla Goyer, che è amico di Nolan, ha curato i vari Batman e non mi ricordo più cosa ha curato, ha curato anche Ghost Rider e incredibilmente è regista de Il Mainato, cioè una cosa che non riesce a capire, ha fatto delle cose bellissime e poi ha fatto Il Mainato. In teoria dovrebbe essere un buon progetto, perché hanno capito i loro errori, cercheranno di essere più fedeli possibile alla versione giapponese, eccetera. C'è dietro un buon scrittore, c'è un regista decente, insomma, diciamo che io sono speranzoso, però da una parte sono speranzoso perché un tempo fa c'era la notizia che sarebbe uscito un Godzilla in 3D, ma doveva essere giapponese, quindi il 30° capitolo della versione loro, e quello lo aspettavo come il messia. Invece, sembra che dopo Fukushima, eccetera, hanno un po' lasciato perdere, perché insomma parlarne adesso magari urterebbe parecchi. Non so voi sì, che dite. L'ultimo capitolo di Godzilla a quanto risale? Quello ovviamente giapponese, intendo. 2004, se non sbaglio. Ma quello che ti faccio due domande. Allora, primo, perché non è mai uscito dal Giappone? Secondo, se un Godzilla giapponese effettivamente è esportabile. Cosa non è mai uscito in Giappone? Non è mai uscito dal Giappone, questo, cioè, almeno nella grande distribuzione. Non è vero che non è uscito, sono praticamente usciti tutti i primi capitoli, gli americani li rifacevano da capo, cioè, cambiavano alcuni dialoghi, perché guai parlare male della bomba atomica americana, e comunque li hanno visti tutti, cioè, ogni venerdì sera la televisione americana in un piccolo contenitore di telefilm e robe del genere mandava un Godzilla, quindi sono usciti, gli ultimi no, perché si saranno stufati, però i classici sì, sono usciti tutti. Poi ovviamente i kaiju movie, questi qui dei mostri, sono chiaramente roba nipponica, però non vuol dire che devi farne una versione americana che non è per niente fedele, se no non lo chiami Godzilla, lo chiami in un altro modo, non c'è nessun problema. Cioè, io ho apprezzato Cloverfield, ma appunto perché non è Godzilla, è un'altra cosa, mi va benissimo. Però se parli di Godzilla, sii fedele, insomma, non è che puoi fare quello che vuoi. Ma quello del 2004 a livello di effetti speciali, di produzione, era una produzione comunque seria o...? Quello non l'ho ancora visto, ne parlano, insomma, non sono all'altezza dei classici, e ormai i modellini non li usano più, quindi, insomma, non sono granché, però sono sempre meglio di quello di Emmerich. Ma no, la penso allo stesso modo, ho visto solo il primo e il secondo degli originali, non capisco questa, cioè, sì, ecco, rispetto al film di Emmerich, che all'epoca appunto non giudicavo con occhio critico, i presupposti sono interessanti, insomma, lui era un regista di film catastrofici, brutti, e gli hanno passato questo e lui l'ha fatto. Queste persone, almeno a parole, sembrano più competenti e più interessate, quindi cioè già è una cosa che, come diceva lui, se la devi fare con lo spirito dell'originale, cioè anzi, appunto, perché farla? Cioè, è un prodotto molto legato alla tradizione, molto legato alla cultura. Tanto valeva ridistribuire gli originali. Sì, sì, un film ben fatto lo vorrei vedere, però non so, non capisco la necessità. A parte quella economica, che vabbè, è sempre sottintesa. Ma una cosa, ma è uscito qualcos'altro al Comic Con o l'unica cosa che abbiamo in mano è quell'artwork che si vide a suo tempo? Sì, è uscito anche una specie di disegno del mostro, però cioè stanno mettendo giù le basi adesso. Che ne pensate se facciamo tot? Lo faremo, questo sarà il regista, eccetera. Però uscirà nel 2014, quindi ancora 2 anni. Beh, già dal design sembra molto più cicciozzo rispetto a quello di Emmerich, che era... Sì, ecco, anche questo. Uomo muscoloso. Spero che sia ciccione, perché Gojira è un ciccione, insomma. Non abbelliamolo, se è brutto Godzilla, è brutto, è grasso, si muove male, è così. Poi loro stessi l'hanno rivoluzionato poco nella storia del personaggio. Ho visto poche modifiche, per cui non capisco perché, anche perché era davvero... non aveva senso, era la testa di un T-Rex su un velociraptor, era una cosa disgustosa. No, era proprio un uomo, era il fisico di un uomo palestrato praticamente. Sì, era praticamente una spina dorsale umana, non so. Tant'è che poi anche per l'estetica mi ricordo che i fan si lamentarono, perché proprio non aveva neanche la forma, era quella dell'originale, non aveva più nulla. Era già qui. Un'ultima cosa che fa pensare bene per questo capitolo, insomma, che Edwards è molto più attento, come si è visto anche in Monsters, al lato umano, più che al mostro distruttivo, eccetera. Cioè a quello che le persone possono provare in un'esperienza simile. Cioè proprio quello su cui poggiava il capitolo originale, il primissimo capitolo di Godzilla. Che quella è una cosa bellissima, perché se il primo Godzilla non era un film di mostri e di catastrofico, era un film drammatico, e poi c'era un mostro che distruggeva la città, però era tutt'altro. E lui vuole fare questo tipo di film, cioè un dramma, e lo vuole fare, e insomma abbiamo visto che lo sa fare, quindi insomma speriamo, però... Il problema è che lo fanno fare, perché poi se già si parla di uno scontro tra mostri, cioè queste cose le fa già l'Asylum o l'Asylum. Sì, cioè, sarebbe scozzerebbe con la con sì, certo, poi se l'evoluzione in Giappone è stata quella si può fare anche qui, ma perché era tanto bello, secondo me, ecco, il rischio è quello, che tutta la buona volontà poi non glielo fanno fare, perché se devi fare il film non come Monster ma quasi, sai, c'è il rischio che gli dicano no, attento a quello che fai, se non ci tiri fuori il catastrofico classico lo diamo a qualcun altro e via. Appunto per quello che poi penso sono buone le premesse, poi vediamo però cosa esce, anche perché di sicuro sarà in 3D e sto 3D lo devi sfruttare. Ma tra l'altro il Godzilla quello di Emmerich fu anche un discreto flop, mi sembra di ricordare. Quindi no, questo so. Aveva un cast fantastico. Sì, c'era Matthew Broderick. E Jean Reno. È in Kazaria, grandissimo. Era una meraviglia, sì. Per chi lo chiedesse, non è un sequel. Non c'entra nulla, perché nel finale dell'uno si poteva pensare che andasse avanti. No, niente, tagliati i ponti. Cioè, sarà ambientato in America? Sì. Sì, immagino di sì, però... Beh, sì, vabbè, per forza. No, sapete il film finale come finisce con... Sì. No, niente, non va avanti da lì, perché alcuni si sono chietti. Ah, ecco, vedrete che riparte da lì. No, zero, niente. Meno male, meno male. E vabbè, beh, questa è una cosa strana, che comunque i film di Emmerich hanno successo commerciale, però poi i seguiti non ne escono, cioè, fa seguiti, che è un grande. Ma tanto, ha tante idee nuove, perché deve fare seguiti? è uno che non si piega in queste cose, vedi? Vedi? Ma costa meno, fare un sequel, devi scomodare, devi mettere un titano, ma facciamo un altro film, tanto sono tutti uguali, no? Sì, poi gliel'avevano anche proposto, fai il 2013, ovvero la serie TV di quelli sopravvissuti al 2012, e lui si è rifiutato. Vedi che ha una morale questo uomo. Sì. Tutto ad un pezzo, lui. No, sta seduto successo, non ho tempo. Spero che faccia Anonymous 2. Ma Anonymous com'è invece? Non l'ho visto. La cagata. No, vabbè, è il solito film in costume. Purtroppo l'idea iniziale buona la butta in nel solito dramma, solita storia d'amore, triangoli. Però l'idea era buona, insomma. È il suo più bel film. Sì, paradossalmente la cosa migliore che ha fatto. No? C'è un po' di cose. No, è meglio di Independence Day. No. Beh, seriamente sì. No, siete bene. Scherzo. Si vede che l'ha diretto lui, perché cioè, la Londra ricostruita a computer non si può vedere, però, e poi la sceneggiatura lascia un po' a desiderare, però alla fine era passabile, insomma. Comunque sta qua a smentirmi, perché si dice che il prossimo suo film sia Independence Day 2, quindi... Perché non lo fanno fare a lui, World of Warcraft? Spero che lo chiami Spaziai. Spaziai... È libero il posto a Roland. Arriva. Passiamo alla prossima news, che qua il monco si infervora. Dai. Parliamo della fase 2 della produzione cinematografica dei Marvel Studios. Infatti, durante il Comic Con 2012 di San Diego, la branca cinematografica della famosa azienda produttrice di fumetti ha annunciato la fase 2 dei film ispirati ai personaggi dei comics che vedremo nel prossimo futuro e che convergeranno nel seguito di The Avengers. Non è stato mostrato alcun trailer, perché fondamentalmente molti progetti sono, diciamo, ancora una fase embrionale di preproduzione. Sono state fornite poche informazioni su cast e crew, quasi nessun film ha un regista, insomma, a parte Iron Man 3, che è di prossima uscita, e Ant-Man, che come abbiamo già detto è stato affidato a Edgar Wright. Sì, a quanto pare è definitivo, perché era una prova, però ormai al Comic Con si è presentato lui, quindi evidentemente sì, è confermato. Che tra l'altro lui ha anche mostrato questa clip a cui stava lavorando, insomma, sì. E ha detto che sono tutti rimasti abbastanza entusiasti, soprattutto per il lavoro di effetti speciali fatto nell'atto del rimpicciolimento, che dicono. Sì, ho letto. Peccato, ha dato tutto in brodo di giuggiole. Le immagini prendono vita. Peccato che rimangano a porte chiuse queste cose, quindi non lo vedremo per un bel po' questa specie di teaser. Sì, e tra l'altro, come avevamo detto anche noi, presumibilmente sarà un film dai toni molto comici, insomma, quindi nelle corde comunque di Edgar Wright. È un problema, quindi vuol dire che faranno il reboot anche di questo? No, vabbè, speriamo di no, dai. Quindi dicevamo, in ogni caso sono stati mostrati Loki, quindi oggi parleremo di Loki e delle date indicative. C'è stato anche qualche artwork in ordine sparso, soprattutto per quanto riguarda Guardians of the Galaxy, che sarà, insomma, il film sui personaggi comici dell'universo Marvel, ma non lo so, io preferisco non parlarne, perché uno, non sono appassionato di quella parte della produzione Marvel, ma due, anche i personaggi minori come Nova, ad esempio, non appaiono, appare un cacchio di scoiattolone, non lo so. Sì, ho visto, non so, io non conosco, quindi c'è anche un albero. Un uomo a forma di albero, non so. No, ma da almeno un paio di anni c'è una trama che viene portata dai tempi di Annihilation, che non so se conoscete, insomma, i fumetti Marvel. E quella trama, che appunto riguarda i personaggi cosmici, è veramente fantastica, è roba sci-fi, insomma, di alta qualità. Però non lo so, dall'artwork non mi sembra che si ricolleghi a quella trama lì, quindi non sci-fi. Lo so. Sci-fi. Sci-fi. E poi anche tagliato l'artwork, non so, c'è un personaggio tagliato a metà, che chissà cosa non si vede. Sì. No, aspetta, ma questa roba sui personaggi comici la fanno davvero? Cioè, personaggi comici, che intendi? C'era già la data. Ah sì? Ma aspetta, di Guardians of the Galaxy. Sì, dovrebbe uscire a ottobre 2014, mi pare. Che sì. Belle. Sì, no, il primo agosto 2014. Che però ancora non si sa niente di... Ancora non si parla di interpreti, di regista, niente. È solo un logo per il momento. Già di questo sono stati presentati i seguiti dei tre che conosciamo bene, che sono Thor, The Dark World, Capitan America, The Winter Soldier e Iron Man 3. Oltre all'Ant-Man di cui abbiamo già parlato. E vabbè, insomma, di Thor, ormai, ma come già il primo film, insomma, la piega che prenderà il film, il seguito di Thor, sarà una piega fantasy, che si discosta abbastanza quindi dalle trame, insomma, degli Avengers. E più che altro c'erano delle speculazioni sui cattivi, si parla di un certo Malekith il Maledetto, che è il leader degli Elfi Oscuri, insomma, quindi non lo so. E in ogni caso riappariranno Chris Hemsworth, Loki, ovvero Tim Hiddleston, la scienziata interpretata da Natalie Portman, ovvero Jane Foster, Odino, insomma c'è la conferma del cast precedente, si immagina qualche aggiunta che ancora però non è stata rivelata, insomma non è stato rivelato neanche il regista, presumibilmente non sarà Kenneth Branagh. E perché ti era piaciuto Thor? No, oh, per favore. La noia, sì, in effetti un po', sì, un po' ingessato. Ad esempio io avevo preferito Capitan America, che era già un po' più ritmato, molto più ritmato, insomma. Il finale di Thor era un ammosciamento, madonna. Sì. Non so se in Capitan America mi è piaciuto realmente o perché c'è Hayley Atwell che mi fa impazzire, non lo so. Sì. Effettivamente è qualcosa che dovremmo chiederci tutti, perché quella effettivamente è un valore aggiunto notevole. E il secondo capitolo di Capitan America invece, abbiamo detto, si chiamerà The Winter Soldier. Il cast sarà presumibilmente simile a quello del prequel, oltre al fatto che si aggiungeranno Vedova Nera, ovvero Scarlett Johansson, Okai, che è appunto Jeremy Renner, Occhio di Falco, e in più ci sarà anche un personaggio che si è visto spesso nel fumetto, insomma, di Capitan America, che è Falcon, che sarà interpretato da Anthony Mackie. E personalmente questo è il film che aspetto di più, perché io, essendo appassionato comunque dei fumetti di Capitan America, c'è questa miniserie, che è quella del Winter Soldier, che è scritta da Ed Brubaker, che è veramente qualcosa di fantastico, mescola azione ma anche è sia un fumetto d'azione, ma anche un fumetto di spionaggio, quindi insomma a volte ricorda anche un po' l'atmosfera dei vari Bond di altri tempi, insomma degli anni 60, quindi non so, a me è piaciuta molto dal punto di vista fumettistico. Speriamo che comunque si mantengano fedeli anche per quanto riguarda la trasposizione cinematografica. Comunque anche qui non si sa chi è il regista del primo era Joe Johnston, sì, che tra l'altro relativamente a John Johnston faranno anche il reboot di Jurassic Park. Sì. Pesantissima questa. Poi reboot di che? Reboot se ne parla quando è una saga avviata che ha bisogno di un inizio nuovo. È un remake. Perché non dicono remake? Ma come ti dicevo, ormai il termine reboot e remake si stanno contaminando a vicenda. Ma sai perché secondo me hanno scritto reboot? Perché poi vogliono rifare anche quei film che sono usciti dopo, che nessuno ha visto, tipo Zatura, che era il gioco, sì, però nello spazio, sai, tutte quelle cose che non si è filato nessuno. Sì. Mettono le mani avanti. E volevo chiederti una cosa, ma questo Winter Soldier, sì, è ambientato nella prima parte della vita, quindi nel passato, o no. è successivo, quindi? Cioè, quando lui è stato risvegliato dal ghiaccio. Dopo che lui è stato risvegliato, si scopre che è sopravvissuto il suo compagno Baki. Ah, anche questo vuol dire, perché avevo letto che c'era Baki, ma non mi quadrava con quello che succede nel primo, che quindi c'è un... Ok, niente. Buono. Torna insomma da villain Baki, perché è diventato insomma un po' una testa calda. Vabbè, no, che detta così non è particolarmente intrigante, però poi effettivamente nel fumetto ci sono risvolti abbastanza interessanti. Dai. Sì. E... Vabbè, dai, cacciaci un po' di insulti, dai. Quindi sono solo sti due, vabbè. E Thor faceva schifo il primo, figuriamoci un secondo. E invece Capitan America, ho detto che l'unica cosa decente era Elieto, e lei di sicuro non c'è nel seguito, quindi... però sta Scarlett Johansson, dai, almeno. Ah, vabbè. No, preferisco lei, mi dispiace. E sì, soprattutto preferivo il look retro, anni 40. Adesso è nel futuro, cioè è nel presente, quindi no. Però ci sarà comunque l'occasione per, come dire... dei flashback e cose del genere, ma in ogni caso almeno per quanto riguarda il fumetto è un po' senza tempo, non nel senso neanche ci stanno non è tutto tecnologia a alti livelli come di Avengers, è un po' fuori dallo spazio e dal tempo il fumetto, non è che si intuisce il fatto che siamo nel presente, anche perché anche dal punto di vista del fumetto il personaggio di Capitan America è un personaggio che effettivamente non si adatta mai al presente. Maltratta le donne, eccetera. Sì. Non fa votare i neri. Vecchio stampo. l'altro film insomma che è stato presentato, ma che ormai è alle battute finali della produzione, è Iron Man 3. Il regista è Shane Black, esatto. Piazza John Favreau. Sì, Shane Black, che tra l'altro aveva. Che ha fatto Shane Black nella vita? Sceneggiatore di Last Action Hero, Kiss Kiss Bang Bang, Gli Arma Letale. Vabbè, è stato anche regista di Kiss Kiss Bang Bang. Ah no, ecco, mi ero confuso, no? Full Metal Jacket, Predator, che sono uguali praticamente, no? Sì. Sono dei fucili, delle pistole. Rebuttate. E niente, riguardo Iron Man 3 ho visto che hanno presentato la nuova armatura, che è una cosa, come dicevi tu, è come quelle punto che... E hanno lo sportello di un colore diverso dalla carrozzeria. Sì, è terribile. Perché invertire? Non so, è la cosa... Poi anche nel fumetto non lo leggo, però ho visto qualche foto, qualche immagine, ha sempre dominato il rosso. Sì. Perché di colpo l'ocra è diventato così importante? È disgustoso. Sì. Che poi non, cioè, è proprio un color vomito quello. Sembra il neonato su una tovaglia rossa. Sì, che cosa brutta. E forse è una mimetica per il deserto, non lo so, è veramente brutto. Che poi sono anche colori opachi, mi pare, di aver visto, quindi... Sì, è tanto bella il fatto che fosse metallizzata la... Il 2 era già un po' più modernizzata, basta. Sì, qualche cambiamento nella linea, ma non serve, non è... Come Batman, gli aggiungi il dettaglio, ma chi se ne frega, non è quello che vanno a guardare. Ma poi dalle prime indiscrezioni pare che stiano facendo una sorta di minestrone dal punto di vista della trama, perché... Sì, ho letto. Dicono che ci sia Iron Patriot, che dovrebbe essere uno dei villain, e la trama invece è ispirata a Extremis, che è un'altra miniserie che con Iron Patriot non c'entra nulla. E ma poi pare che ci sia il Mandarino, che è un nemico classico, no? Sì, esatto, che non c'entra nulla da... Appunto, se ne parlava da un po' per il 2, invece non era vero, e poi hanno confermato Ben Kingsley che fa il mandarino, ma è, appunto come quaglia con le altre... Non quaglia con nessuna delle due, ma anche perché per introdurre Iron Patriot devi introdurre un personaggio che del Marvel Universe, che comunque è il nemico giurato di un altro personaggio, ovvero di Spider-Man, perché è Norman Osborn praticamente... che faceva il Goblin, quindi è un po' un casino, non lo so come... Ma forse, molto probabilmente sarà solo, diciamo, non ci sarà Iron Patriot come villain, ma sarà, diciamo, una versione delle armature di Tony Stark. Anche perché ovviamente sono indiscrezioni che vengono fuori dalle voci, perché comunque anche questo hanno mostrato una specie di teaser, che non è circola come gli altri, perché è stato mostrato a porte chiuse, probabilmente qualche voce... Però di Iron Patriot fermata, però non so. Sì. parlava di questa cosa di Extremis, qualcuno ha parlato di un'armatura che volteggia e lui la chiama a sé con la mente, una cosa che mi ha, non conosco la saga, ma mi ha fatto un po' storcere. Vabbè, sì, praticamente in Extremis diciamo che Iron Man è l'unico personaggio dell'universo Marvel che non ha poteri, un po' come Batman, no? Mm. E invece con Extremis viene contaminato da un virus creato da lui stesso attraverso le nanomacchine che gli permette di controllare l'armatura a livello neurale, insomma, e quindi si integra ancora di più con l'armatura, ecco. Ma come fai ad andare avanti e avanti a leggere sta roba? Ma guarda, trovi tanta merda, ma tanta, tanta, però trovi pure tante cose belle, tipo, vabbè, io essenzialmente leggo Batman e Daredevil, che alla fine sono i due personaggi, forse, secondo me, migliori, proprio perché si mantengono un po' più coi piedi per terra, ecco, non c'hanno tanti fronzoli, alla fine non hanno superpoteri, Daredevil, insomma, c'ha i sensi un po' più sviluppati proprio perché è cieco, però per il resto si trovi veramente tanta cacca e devi fare un sacco di selezione. E tra l'altro Extremis, detta così, può sembrare una merda, però effettivamente non è le cose migliori viste su Iron Man. Beh, è pur sempre un fumetto, insomma, sono esagerazioni che ci stanno, no? Sì, sì, insomma. Io non sono un gran lettore, ho letto Batman non in modo approfondito, ma l'ho letto parecchio, soprattutto le saghe chiuse, comunque il lungo Halloween, che poi alla fine sono le cose migliori, perché... Sì, sì, lungo Halloween, infatti, no, io che non sono un grande lettore l'ho trovato bellissimo, mi è piaciuto molto. Leggi poi allora pure Vittoria Oscura, e il seguito, insomma. No, non conoscevo, me li segno. E niente, quindi sì, effettivamente trovi tante cose buone nei cicli chiusi, insomma, soprattutto quando ne vengono trattati da grandi autori, tipo Frank Miller, tipo Jeff Loeb, per quanto riguarda il grande Halloween. Però per il resto, soprattutto se segui le uscite mensili, ti becchi tanta di quella cacca che non hai idea. È quello che mi frena, l'idea di comprare mensilmente una saga che poi quando vogliono richiudono e riaprono. Mi piace l'idea della cosa chiusa, ecco. Però guarda, però c'è il vantaggio comunque che, essendo le uscite in ritardo rispetto agli Stati Uniti, puoi comunque farti un'idea sui pareri delle saghe ormai concluse. Vabbè, sì, sì. E forse questa cosa dei reboot è una cosa tipicamente tipica dei fumetti, probabilmente l'hanno presa lì, perché da quel poco che conosco, cioè un personaggio può morire e essere riportato in vita quando fa comodo. Sì. Quindi puoi ricominciare sempre una saga, no, cioè diversi alternativi, poi... insomma c'è sempre un modo per rifare da zero. Probabilmente Hollywood ha preso da lì, soprattutto perché la cosa di reboot è venuta fuori proprio con i comic movie. Cioè è proprio una piaga che hanno portato i fumetti, quella di poter ricominciare, rifare tutto ogni volta che vuoi. Ma più che altro poi nel fumetto la caratteristica principale è che come abbiamo già detto mi pare in una puntata passata, comunque la caratteristica principale è il fatto che quando uno scrittore importante si approccia a quel personaggio ne dà un'interpretazione personale. Questo capisco, ed è anche bello proprio perché a me piace Moore, piace Miller e va bene, ma il resto che dicevo io, insomma la saga in generale che viene rimaneggiata in continuazione. Sì. Vabbè, ma Moore ad esempio ha riscritto così di suo pugno e di sua iniziativa le origini del Joker e ha fatto bene alla fine. Ma quello è un criterio già, ecco, non è il fumetto che deve andare avanti per mille numeri e allora a un certo punto ci dobbiamo inventare qualcosa, cioè ha un senso, è come appunto la visione di un artista che la fa sua e poi insomma, poi si vede la differenza, no? Quando la prendono in mano. Ma magari forse con i film è più difficile mantenere una continuity. Quindi perciò ributtano. Certo, ma anche perché c'è sempre la necessità appunto di Avengers o l'altro personaggio, no, è il business probabilmente li spinge sempre a aver bisogno di un'impostazione diversa, non va bene, lo rifacciamo e via. Sì. Vabbè, Monco, se vuoi insultarci ancora... No, mi chiedevo se era una puntata di cinema o di fumetti, così. Ecco qua, vedi. E che non vediamo l'ora di passare al prossimo argomento. Esatto, il prossimo argomento, che è l'unico film trattato e in cui io mi eclisserò perché non ho avuto tempo e modo di vederlo. La leggenda del pianista sull'oceano che ammazza i vampiri. No, non è quello. No. La leggenda dell'ammazza vampiri. No, la Vabbè, leggenda del cacciatore di vampiri. Vabbè, eravamo seri quasi, dai. Film in sala. We'll be right back. Diciamo subito che un titolo che ammazza l'interesse verso questo film, non che gli italiani sappiano chi è Abramo Lincoln, però insomma, o no? È quello che ha inventato le noccioline. Esatto, cioè, dai, ho capito, non siamo in America, però la particolarità è quella e tu la togli, cioè, dai, chi è questo imbecille? Va bene le traduzioni brutte, ma questa è proprio un'idea geniale, vorrei conoscere Bondi. E quindi immagino che stravolgeranno anche il titolo di Orgoglio e Pregiudizio e Zombie, perché chi la conosce qua Jane Austen? Sì, si chiamerà Ragione, Ragione, Sentimento e Zombie. Oppure Gli Zombie in Costume. Sì, probabilmente. Gli zombie del romanzo. Zombie e buoi dei paesi tuoi. Aspetta, visto che qua comunque hanno tagliato Abramo Lincoln, la taglieranno Orgoglio e Pregiudizio, quindi si chiamerà Puntini Puntini e Zombie. Va bene. Io ho paura per la versione di Spielberg, perché lo faranno uscire come La Leggenda del Sedicesimo Presidente, così uno non capisce neanche di cosa parla. Vabbè dai, chi ne parla? Ne parla il Monco o Intrinseco? Produce lui che ha scritto la recensione, poi ne parliamo. Vabbè, abbiamo detto che quindi non lasciatevi intimidire da un trailer piatto, un titolo piatto che non sembra essere il solito film sui vampiri. Vabbè, insomma, alla fine è il solito film sui vampiri, però ha quel fascino in più dovuto al protagonista che è il sedicesimo presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, che nelle vesti qui di supereroe, alla fine possiamo anche chiamarlo così. Alla fine è un film quasi supereroistico, perché il giovane Abramo Lincoln, intorno al sedicesimo anno di età, questa è già la trama del film, viene attaccato da un vampiro, e qui viene aiutato poi da un amico che si chiama Henry Sturgis, che non credo sia un personaggio storico né importante né forse mai neanche realmente esistito, che lo avvia e lo istruisce alla professione di cacciatore di vampiri. Quindi con la sua ascia d'argento, ogni notte, dopo aver lavorato nella bottega, si avventura per le strade della cittadina a menar fendenti col mio pugnale, no, un'altra cosa bella, e a ammazzare i vampiri. Questo dura per un periodo, poi lui si sposa, se ne frega aldamente di tutto, dice vabbè, i vampiri ve li lascio a voi, io mi sposo Mary Elizabeth Winstead e divento presidente. Una volta diventato presidente però scopre, e questa almeno dal mio punto di vista mi piace come storia, che i vampiri si sono alleati con i sudisti, con la Confederazione degli Stati del Sud, che sono a favore della schiavitù, soprattutto i vampiri perché usano gli schiavi come cibo, e quindi si combatte la guerra civile e Lincoln si troverà di nuovo di fronte ai vampiri. Poi un finale meraviglioso, come al solito. Sul treno, come si dice, il marchio di fabbrica di Timur Beckenbauer Bambe Bimbetov, e poi un altro finale, proprio l'ultimo, che è molto carino perché si lega alla storia vera poi che ha fatto Lincoln, ma qui non spoileriamo, chissà chi non sa che fine ha fatto Lincoln. Ci siete ancora? Siete svegli? Vi è piaciuto? Niente, il film si inserisce in quella moda che piace tanto a Intrinseco, no, però quella moda di unire sia l'horror con dei personaggi storici famosi, reali o inventati, per esempio cioè il trascioso Jesus Christ Vampires Hunter della Troma, dove appunto Gesù Cristo tornava in vita per ammazzare delle vampiresse lesbiche. C'è il bellissimo Babba Hotep di Coscarelli, dove Elvis deve combattere con la mummia. Nel futuro vedremo, sempre scritto da Seth Graham Smith, qui sceneggiatore anche purtroppo di Dark Shadows, Orgoglio, Pregiudizio e Zombie. E insomma, questa è la moda del momento. E in più, la moda del momento sembra essere proprio lo stesso Lincoln, perché... è già uscito quest'anno un filmaccio super trash in cui combatte gli zombie. È uscito questo. A novembre esce quello di Spielberg e non so se riesce entro fine anno, probabilmente slitta al 2013, un altro film di cui non si sa ancora nulla, ma in cui è almeno sicuro che Diane Kruger farà la mamma di Lincoln. Quindi un altro film su Lincoln. Il giudizio intanto lo lascio a a intrinseco, poi magari commento. Scarichi tutto sulla mia spalla. Che pezzo di merda. Va bene. Niente, sì, giudizio. Questo è uno di quei finti B-movie, fatemi finire, che appunto mettono insieme lo storico e il fantastico, però appunto non è un B-movie, perché poi vedendolo, almeno uno si può fare questa idea, perché vedendo l'accostamento del titolo puoi pensare al trash o al finto trash, comunque il famoso trash coi soldi che poi non funziona. Però non è questo, perché non credo si possa considerare, cioè sì, a tutti gli effetti un B-movie, perché l'introdurre questa variante del vampiro lo rende tale, però ha un tono serio, si prende pericolosamente sul serio, cioè è un classico film sugli ammazzavampiri, cioè poteva benissimo esserci qualsiasi altro personaggio e sarebbe stato lo stesso, non c'è l'ironia, sì, c'è solo una ricerca della corrispondenza tra quei fatti della storia e la storia vera, cioè quella del personaggio. Però appunto proprio il fatto che non è trash, secondo me lo degrada, lo rende meno interessante, cioè diventa, tolta l'ironia, tolto il finto trash, cos'è? È un film, come dicevo, che si accoda alla tradizione dei cacciavampiri con le dovute correzioni, perché qui come al solito c'è la rivisitazione libera, qui non brillano, però se ne possono stare al sole, l'importante è avere gli occhiali da sole, che sono chiaramente una moda diffusissima nell'Ottocento, i Ray-Ban, no vabbè, quasi. Quindi insomma, reinventare il vampiro, mettergli contro un cacciatore di vampiri, e niente, non mi ha detto nulla, ecco. Ha qualche sequenza d'azione che arrivo quasi a dire che mi è piaciuta, cioè questa scena, quell'inseguimento a cavallo che ha delle belle, ben coreografato, anche se il digitale è presentissimo e il rallenti non ne parliamo. Sì, ha delle belle sequenze action, ecco, però nell'insieme è un po' piattino, ecco, io non riesco a non considerarlo un semplice action con i vampiri, e come tale ha qualche momento felice e altri decisamente meno, cioè tolta la parentesi B-movie è dimenticabilissimo, ecco, non so che altro dire. Ma io mi è piaciuta l'idea, insomma, mi piace anche questo Seth Graham Smith, che potrebbe diventare un buonissimo scrittore e tirar fuori qualcosa di buono. Penso che il problema principale di questo film sia stata più che altro la regia, che non è stata all'altezza di una storia, forse non ha neanche voluto usare troppo, osare, non usare, troppo. Sì, poi... Cosa... un orgasmo, che... è che ho ancora lo sguardo annebbiato da quella visione. Ah. Sì, un attimo che riprendo le fila. Vabbè, ah, comunque mi avete tarpato qualsiasi entusiasmo, perché cioè, dal trailer la cosa che mi preoccupava di più era il fatto che non ci fosse un briciolo di autoironia, e cioè, me l'avete confermato, quindi io credo proprio che film non lo guarderò. Come diceva lui, non osa più di tanto. Il problema è quello, cioè secondo me roba come Machete, comunque i finti trash, no? Non funzionano. Qualcuno dice perché il trash non è tale se dietro c'è un grosso budget, però non è vero, perché anche se non è grandissimo, comunque una roba come Death Proof in mano a una persona come Tarantino è un bellissimo omaggio e funziona perfettamente, quindi non sono i soldi il problema, sono le persone, perché con i soldi puoi comunque fare un ottimo lavoro. E quindi secondo me questo tipo di film vuole andare contro tendenza, cioè visto che quei finti trash vanno relativamente male, proviamo a fare una cosa un po' più seria, cioè, magari il problema è quello. Invece no, appunto, fanno ancora più danno, perché limitandosi, cioè togliendo l'ironia, togliendo l'esagerazione, cosa rimane? Come dicevo, un semplice film d'azione, allora a che serve? Fai l'ennesimo vampire movie e chi se ne frega. No, su questo sono d'accordo, però... sarà stato che io non mi aspettavo una cazzata, nel senso, va bene, la storia è tutta lì, è solo un presidente, un personaggio storico che va a combattere i vampiri, però perché se la storia è questa devi per forza buttarla in trash? Va bene così, vabbè, hai voluto fare solo tra virgolette un filmettino sui vampiri, però va benissimo, però è, per me è, tanto valeva non farlo, cioè non ha attrattive particolari, è una bella idea su carta, ma cioè, penso anch'io che abbiano voluto fare questo, però non vedo perché io poi dovrei interessarmi. Sì, è un po' quello che volevo dire anch'io, nel senso che la notizia appena la recepisci dici ah che figata, è Lincoln che combatte i vampiri, poi ci pensi un po' su e dici vabbè, è Lincoln che combatte quei vampiri, quindi è un film di vampiri, e finisce lì, e credo che anche lui abbia fatto questo, e Lincoln sì. Va contro i vampiri, finita lì. Però appunto io preferisco che non abbia fatto una schifezza in cui magari vengono neanche messe dentro le sue citazioni, quindi un Lincoln da libro che poi va a combattere contro gli zombie, no? E madonna, sti zombie, i vampiri. È solo un personaggio che poi sarebbe diventato Lincoln, quindi molta parte del film è Lincoln che era ancora una persona normalissima, poi sarebbe diventato il politico, quindi... È così, era bello anche se lo facevano normalissimo, alla fine dice, ah, era Lincoln, però vabbè. È per quello che dicevo anche, che il film può, come dice, non accontentare né chi voleva qualcosa di trash, né chi voleva qualcosa di serio, perché tutti e due avranno da lamentarsi, uno voleva molta più autoironia, molto più cacciarone, e l'altro invece dice, vabbè, insomma, ma non si vede granché di Lincoln, non si vede granché della storia, eccetera, quindi sì... disobbedisce, stavo per dire. Disobbedisce. Non accontenta nessuno, e a parte me. No, vabbè, non è che ne parlo benissimo, ma neanche malissimo. Ok. Vabbè, con i film in sala andiamo a finire qui, perché effettivamente non c'è un cazzo in sala. Ci rifaremo la settimana prossima. Dai. Che esce la settimana prossima, dai, aggiornatemi. Contraband che hai chiesto tu insistentemente. Sì, guarda, proprio. Bad Time di Balagherò. Quello che devo recensire io, anzi parlava di Balagherò anche oggi, e quindi c'è un nesso, e poi non mi ricordo, c'era qualcos'altro. È il mio, stronzo. Quello The Vow, che non mi ricordo il titolo italiano. È per la memoria del cuore, che ho già visto e recensito, adesso non so se esce domani, quindi non so se la metto domani o giovedì, dipende da quando esce la puntata. Ho capito. E vabbè, quindi poi vedremo. Passiamo invece dai consigli, facciamo veloce visto che siamo quasi alle 2 ore. Allora, vai Monco, che ci consigli? Consiglio un film che volevo dire l'altra volta, nella puntata dei Dispersi, solo che non era Disperso, è uscito, ed è A Simple Life, un film cinese, è uscito a marzo in Italia, molto molto gradevole, non lasciatevi spaventare dalla trama, perché parla di anziani cinesi, insomma l'anzianità, il rapporto di un giovane con la propria governante anziana e malata, però è molto molto molto bello, è molto profondo, merita tantissimo. Vai intrinseco. Io così a bruciapelo, non mi sono preparato nulla, mi è venuto in mente The Divide di Xavier Jens, lo volevo già citare in una vecchia puntata, poi mi sono dimenticato, è un fantascientifico, sì e no, comunque un classico disaster movie in cui le vittime sono chiuse in un rifugio, c'è una catastrofe che non è ben specificata, un gruppo di condomini si chiude nella cantina insieme a un paranoico che, prevedendo un eventuale attacco terroristico, ha creato questa specie di rifugio, e succede quello che succede sempre, in questo senso è un pochino prevedibile, però è abbastanza forte, ha qualche scena un pochino più cruenta, ma si lascia guardare, si scivola un po' nel cliché, ma secondo me una visione la merita. Dategli un'occhiata. Ma si è sentito bene la trama? Sì. Ah, allora ho avuto problemi io, allora niente. Ah, ok. E vabbè, niente, io molto velocemente vi consiglio un libro che ho finito da poco e che di cui sarà prodotto a breve un film, ovvero World War Z di Max Brooks, ovvero La guerra mondiale degli zombie. È un libro che appunto è una sorta di cronaca di guerra dove Max Brooks interpreta il ruolo di un intervistatore che appunto attraverso le interviste dei protagonisti di questa guerra ci narra il prima, il durante e il dopo della guerra contro gli zombie su scala mondiale. E dovrebbe uscire un film interpretato da Brad Pitt che però mi sembra abbia vissuto una lavorazione abbastanza turbolenta. Ho sentito che la seconda parte è stata completamente riscritta dopo la fine delle riprese. Non ricordo insomma quali sono i nomi coinvolti, so solo che il protagonista sarà Brad Pitt. Effettivamente è un libro che è poco filmabile, nel senso che comunque la sua struttura è interviste o fai una cosa tipo Documentary. no, mockumentary. Sì, più o meno mockumentary, però District non mi viene in 9. mente. Non District 9. Un film sempre a interviste. Film d'animazione. Ah, Walter con Bashir. Ecco. O fai una cosa del genere, effettivamente non è molto filmabile. E vabbè, sempre dello stesso autore, sempre sullo stesso genere, c'è anche il manuale per sopravvivere contro gli zombie. No, è suo. Se lo Sì, conoscete. è Max Brooks. Ah, ok. Esatto, e quindi insomma anche quello è molto interessante e potrebbe essere utile visto che con la droga camicia che va in giro di sti tempi, insomma, magari ci scappa l'invasione, dai. E vabbè, abbiamo concluso, abbiamo sforato ampiamente la nostra durata abituale, non so se Ma volete quando aggiungere parli di qualcos'altro. fumetti Eh certo, vabbè, tagliamo tutto con la parte allora, dai. No, no. E vabbè, salutiamo tutti quanti. Ciao, ciao. Ciao! Oh, meno male. Ciao a tutti. Veniteci a trovare a Locarno.